Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La ragazza mi ha lasciato, è colpa mia. Sono stato anche bocciato e non andrò via. Passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Quelli li odio di più, non lo so, ma è così. Odio i lunedì. Eccoci di nuovo qui ai blocchi di partenza per affrontare un'altra settimana. Il lunedì, è vero, è un giorno delicato, meglio affrontarlo col piede giusto. Ci proviamo. Oggi in linea con noi abbiamo il professor Fulvio Palombini. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Andrea. Professor esatto. Palombini, ci sono giornate difficili, lunedì può essere una di queste, giornate in cui sentiamo il morale un po' sotto i piedi, è un modo di dire però, professore, che ci dà anche un'indicazione, un suggerimento per trovare, io non dico la soluzione, ma un rimedio. Sì, il piede, un buon rimedio potrebbe essere il piede. Il piede è un organo meraviglioso, un organo posturale per eccellenza, il punto dove finiscono molte cose, fibre nervose, il sistema vascolare, il sistema fasciale che dal collo arriva proprio fino al piede. Quindi un punto, e tra l'altro un punto comodo da toccare, da trattare, quindi perché no, non usare una stazione così per risvegliare il corpo, perché no? Lei dice per risvegliare il corpo, per dare energia, perché dal piede, che viene considerato da molti come il secondo cuore, perché sì, è una pompa. È una struttura molto vascolarizzata. Diciamo, per noi che facciamo riabilitazione ci interessa molto perché è veramente il punto dove tutto il sistema fasciale, questo sistema che entra all'interno di tutto il corpo, all'interno del sistema nervoso, del cervello, trova delle terminazioni proprio nel piede. E quindi sta diventando sempre di più l'organo posturale per eccellenza. Quindi, professore, per questo diciamo, quando abbiamo il morale sotto i piedi, partiamo dal piede per tirare su, non dico il morale, ma almeno avere più energie, per avere la voglia di affrontare le cose col piede giusto. Un organo molto stimolabile, un organo che ci permette di attivare tutto il corpo. Io consiglio, più che punti, perché sa, bisogna avere poi certe conoscenze, il modo di premere è molto importante, l'abbiamo già detto molte volte in passato, anche in questa radio, l'ideale è creare delle pressioni piuttosto energiche, che però vengano avvertite come qualcosa di un sollievo. Io vado spesso in Spagna a lavorare, gli spagnoli dicono il dolor che alivia. Quindi uno stimolo doloroso che però può mettere in moto dei meccanismi benevoli del corpo. Quindi adesso, professore, i piedi sono impegnati, diciamo, in tenuta d'ufficio e da lavoro, ma arriverà il loro momento, immagino questa sera. Quindi mettiamo i piedi nelle sue mani, ci togliamo le scarpe, le calze, perché ormai le abbiamo, fa freddo, le abbiamo rimesse. Mettiamo la gamba sinistra sopra il ginocchio. Sì. E con la mano destra cerchiamo proprio di stimolare la parte interna del piede, dal tallone all'alluce, alla cipolla per capirci, alla prima articolazione del piede, tutta quella parte interna del piede con una certa intensità con il polpastrello del pollice, lungo quello che si chiama l'arco plantare del piede. Per poi finire proprio sotto il tallone con una energia ancora maggiore della mano e tutta la parte mediana dell'arco plantare, un punto importantissimo anche per stimolare gli organi interni. I riflessologi plantari dicono che la zona, diciamo, in mezzo al piede è proprio la zona viscerale per eccellenza. Io non sono esattamente, non credo proprio al 100% in una zona così specifica, piede-organo, ma sono convinto che una stimolazione così intensa possa mettere in moto tutto il sistema nervoso e attivare sicuramente anche gli organi. Quindi, professor Palombini, guardiamo la pianta del nostro piede, individuiamo una specie di ombelico. Esatto, brava. Una specie di ombelico in mezzo al piede. In mezzo al piede. Forse il punto migliore è in mezzo al piede. E un altro punto sicuramente molto molto interessante è proprio sotto il tallone. Sì. Lì finisce tra l'altro il nervo sciatico, lì finisce tutta la terminazione nervosa del corpo. Quindi stimolare intensamente sia il centro del tallone, Sì. La base del tallone dove inizia l'arco plantare, diciamo la pianta del piede, è proprio con grande intensità il centro del piede. Ripeto, la stimolazione deve evocare una sensazione dolorosa ma indubbiamente piacevole, senza discutere, non deve essere una cosa dolorosa e basta. Spesso noi chiediamo ai nostri pazienti e loro rispondono fa male ma ci piace, questa è la risposta che noi dobbiamo darci a noi stessi. E quello è il giusto punto di stimolazione di intensità del dolore, un male che piace. Esattamente. Abbiamo e metteremo sulla nostra pagina Facebook la foto di un piede con i punti, individueremo l'ombelico, l'abbiamo chiamato così, la parte centrale nella pianta del piede su cui esercitare una pressione leggera ma energica, e poi la parte del tallone proprio nei punti suggeriti dal professor Palombini. Quindi stasera potete seguire questa mappa e regalare sollievo ai vostri piedi per un benefico sollievo, si dice così, professor Palombini? Certo, un benefico sollievo. E ricordo anche di non perdere di vista magari la parte finale della gamba, quella del famoso tallone, tendine d'Achille, cercare di fare le piccole stimolazioni anche sulla parte della gamba, proprio per poi arrivare anche al piede, e quindi la stimolazione diventa un pochino più completa, un pochino più efficace. Grazie professor Palombini per essere stato con noi, la ringrazio e le auguro una buonissima giornata. Buon automassaggio a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Intanto, se siete soliti fare un automassaggio, raccontatecelo 800 24 0024. In questa puntata potete naturalmente riascoltarla in podcast, ma restate, è importante, con noi, seguite su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è passo dopo passo. E se l'hai vista camminare e con quel passo da verbale. Questa sera ci ringrazieranno, metteranno le ali, ma adesso facciamoli lavorare, e il loro lavoro è sostenerci e portarci a spasso, e per stare bene dobbiamo fare tanti passi. L'OMS infatti ha raccomandato almeno 30-60 minuti di attività fisica giornaliera. Questo tradotto in passi significa 5-10 mila passi al giorno, però condotti di, come si dice, buon passo. Un impegno salutare che, come sappiamo, porta tanti benefici a loro, intesi proprio come piedi, e a noi. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Respizzi, che è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie Nicoletta, grazie agli ascoltatori. Eh sì, è proprio così. Il cammino di fatto è una cartina al tornasole del nostro benessere. Se stiamo bene, camminiamo, ci viene voglia di fare quattro passi, camminare ci fa bene, e quindi invece di essere un circolo vizioso è un circolo virtuoso in questo caso, in cui i piedi hanno proprio il ruolo di portarci in giro, determinante, perché noi non ci pensiamo mai, questi poveri piedi sono lì in fondo, sono dentro nella scarpa, magari emanano degli odorini non perfetti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non è un tipico argomento di conversazione tra gli amici, insomma, i poveri piedi sono un po' trascurati, direi. Invece noi li rivaluteremo, perché come abbiamo sottolineato, e poi lo sappiamo tutti, i piedi ci sostengono e soprattutto ci portano a spasso. Non ancheggi in quel modo. Io non ancheggio mai. Qualunque cosa faccia non va. Adesso ascolta, devi tenere i piedi in fuori e appoggiare prima i talloni. Spavalda! Senza uomini in vista, decisi di salvare le mie caviglie da una vita noiosa comprando troppe paia di scarpe col tacco a strapiombo. È vero, dottor Respizzi, dei piedi ci ricordiamo solo quando si fanno sentire. Sì, purtroppo sì, nel senso che di solito non danno segno della loro presenza, noi li gestiamo in maniera abbastanza distratta di solito, ma tenuto conto che dell'importanza che hanno dal punto di vista sensoriale, abbiamo detto anche un secondo cuore addirittura, dovremmo dedicare un po' più di attenzione. Ma loro di solito si fanno vivi quando c'è qualche problema, e quindi ci mandano dei messaggi: c'ho male ai piedi, banalmente, il più semplice di tutti, c'ho male ai piedi se faccio una determinata attività o se supero una determinata distanza. Quindi una prima domanda che i nostri ascoltatori si devono porre: quando li sento? Quando si fanno vivi? Di notte, di giorno, al mattino, dopo aver fatto tanta strada, con quel tipo di scarpa particolare? e in questo modo noi possiamo pian pianino entrare in un'eventuale situazione un po' critica che possiamo provare a correggere e poi possiamo vedere anche come, insomma. Quindi la prima domanda è: quando si fanno sentire i vostri piedi? Quando state fermi, quando vi muovete, magari a letto? Ma dottor Respizzi, facciamoli muovere, perché lei ha detto che è il cammino, il modo in cui camminiamo, il camminare è una cartina tornasole del nostro benessere, un circolo, come lei ha detto, non vizioso ma virtuoso. E allora il modo in cui camminiamo influenza la nostra postura e direi lascia il segno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, ad esempio, una cosa che abbiamo già detto più volte è di verificare come vengono consumate le suole delle scarpe. C'è chi consuma più la parte esterna, più la punta, più la parte interna. Sono tutte condizioni che possono dare notizie molto importanti a noi medici. Ma noi dobbiamo anche pensare a autovalutarci la nostra postura. Allora, io ho pensato che, così come quando vediamo una persona che ha un bel passo, che ha un bel cammino, c'è chi si dice invece che cammina come un cavallo, no? Ci sono questi modi di dire che brutto cammino che ha questa persona. Noi possiamo sicuramente avere un buon passo, un bel passo, se tutto il corpo che sta sopra i piedi è posturato nella maniera corretta. E quindi si tratta anche qui di capire, di autovalutarci per vedere dove è possibile apporre delle correzioni. Come possiamo fare? Quindi questo è il momento del test di autovalutazione, a cui noi vorremmo dare naturalmente un titolo, in modo che possiamo poi metterlo sulla nostra pagina, sulla pagina del programma e quindi sul sito di Radio 24. Potrebbe essere, ma chiedo a lei e chiedo naturalmente ai nostri ascoltatori. Guardiamoci allo specchio. Con i piedi. Guardiamoci allo specchio con i piedi. Cosa intendo dire? Quando tutti noi abbiamo in casa uno specchio lungo in cui ci si guarda quando siamo vestiti, se ci mettiamo in mutande a piedi nudi e camminiamo verso questo specchio, possiamo verificare direttamente, autovalutare qual è la postura del nostro ginocchio, del nostro bacino e del nostro tronco, perché ci vediamo tutti interi in un colpo solo, e possiamo definirci quelli che camminano con i piedi aperti, con le punte dei piedi aperti, quelli che camminano con le punte ruotate verso l'interno e di conseguenza quelli che hanno il ginocchio un po' ruotato all'esterno o il ginocchio un po' ruotato all'interno. Sì. Già questo tipo di... o quelli che vanno dritti, perché ci sono anche quelli in mezzo che evidentemente sono perfettamente dritti e in asse. Facendo un passo normale, un passo che ci viene spontaneo, non dobbiamo essere forzati. Mi viene in mente le fotomodelle camminano perché sono forzate mettendo un piede davanti all'altro. È un cammino che va bene per una sfilata di moda, ma è un cammino totalmente antifisiologico, non ha nessun senso camminare in quel modo lì. Noi di solito camminiamo mettendo avanti un piede e poi l'altro, ma stiamo con i piedi aperti, distanziati uno dall'altro. Ecco, se io mi guardo mentre faccio questa breve camminata davanti allo specchio di casa mia, posso già classificarmi in cioè i piedi intraruotati e cioè i piedi extraruotati. Lungi da me dare qualunque tipo di diagnosi, evidentemente, dopo una valutazione di questo tipo, ma è già un'indicazione su come è la postura del mio corpo. E su cui si può intervenire, però, dottor Respizzi. Certo che sì. Quindi, sicuramente non potete farlo, perché molti di voi ci stanno seguendo in ufficio, al volante. È difficile, perché... Beh, si può anche lavorare da soli in ufficio, però magari non c'è lo specchio lungo. Ecco. Dottor Respizzi, quindi il nostro test di autovalutazione, però magari qualcuno di noi l'ha già fatto, perché magari familiari o amici gli hanno detto: certo che tu cammini con le punte proprio in dentro, hai un buffo modo di camminare. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci quando si fanno sentire i piedi e mi sembra, dottor Respizzi, che abbiamo dato alcune indicazioni per valutare il piede anche come secondo cuore, come parte del nostro corpo essenziale per il nostro benessere, perché dalla sua posizione dipende il benessere di tutte le articolazioni. Assolutamente, tutto ciò che sta sopra, cioè la caviglia, ginocchio, l'anca e la schiena. 800 24 00 24, faremo naturalmente anche muovere i nostri piedi, li faremo camminare per questo circolo virtuoso, come ha suggerito il dottor Respizzi, e tra l'altro in preparazione della puntata sulla nostra pagina Facebook vi abbiamo suggerito e chiesto di fare un piccolo gioco, di fare l'acronimo di cammino, e sono arrivati. Ad esempio Lina mi ha scritto: ci aspettano molte mitiche imprese, niente ozio. Eleonora: cominciamo a marciare mentre intoniamo Nessun ostacolo. Mentre Rosa: continuamente andiamo molto motivati, inventandoci opzioni. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, oh yeah. Voi muovete i vostri piedi? Quanto e per quanto tempo? Un'adeguata e regolare attività fisica associata a una dieta sana e equilibrata è la nostra assicurazione per la salute. In linea con noi abbiamo il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno dottor Bertuzzi, bentornata. Bentornato. Buongiorno a tutti. Lo sappiamo che lo stile di vita è molto importante per la nostra salute, è un investimento sicuro. Certo, movimento e dieta riducono del 60% la possibilità di sviluppare diabete di tipo 2, mentre un trattamento farmacologico lo abbassa solo del 30%. Mi scusi dottore, mi ripete questo dato che è molto importante, perché noi siamo un po' saturi come informazione di sentirci dire dai medici che muoversi fa bene, mangiare fa bene, ma quando allora si confrontano dei dati così importanti le antennette si rizzano. Allora mi ripeta bene questo dato. Certo, lo stile di vita, inteso come un'attività fisica e una dieta controllata, possono ridurre del 60% la possibilità di sviluppare il diabete mellito di tipo 2, quello degli adulti, quello degli anziani, mentre invece i farmaci che sono stati usati negli studi per ridurre lo sviluppo del diabete hanno avuto un effetto soltanto nel 30% dei pazienti. Quindi lo stile di vita è efficace due volte tanto il trattamento farmacologico. Perfetto, quindi lo stile di vita nella prevenzione batte i farmaci 1-0. Certo, va bene, direi proprio di sì. È corretto. Allora, possiamo passare, dottor Bertuzzi, dalla teoria alla pratica? Diamo delle indicazioni per due o tre profili di persone che si possono riconoscere? Sì. Allora, ad esempio, per una persona in buone condizioni fisiche, abbastanza giovane, magari anche un pochino in sovrappeso, il consiglio è di fare circa 20 minuti al giorno di attività fisica aerobica, che vuol dire bicicletta, nuoto, ciclette, corsa, anche il ballo va benissimo, come attività fisica moderata, mentre a questa va aggiunta anche 1-2 ore alla settimana di un esercizio fisico più intenso, quindi sono quegli esercizi che fanno aumentare un po' la frequenza cardiaca, che si fanno sudare. Sì. Se la persona invece è obesa, magari anche veramente, se veramente obesa, qui in questo caso all'attività fisica aerobica va fatto anticipare un certo programma di allenamento, cioè il paziente deve abituarsi pian piano a potenziare la propria muscolatura, e magari può essere sufficiente sollevare piccoli pesi, o magari se un paziente, non so, abita ad un piano alto, cominciare a fare le scale a piedi, che può essere già un sistema molto semplice per cominciare a potenziare un pochino la muscolatura, per passare poi ad un esercizio fisico più strutturato. E certo che, e diciamo, introduciamo la terza categoria dei pazienti, per i pazienti invece anziani e quelli che magari hanno avuto dei problemi o di cuore o di altro tipo, in questi casi l'attività fisica va coordinata, va un po' programmata, sentendo il medico di base o eventualmente certo, un cardiologo. Quindi, però consigliata a tutti. È consigliata a tutti, abbinata ad una dieta varia ed equilibrata. Vi rimando come sempre sul nostro sito, ci sono le ricette di Stefano Polato preparate per i partecipanti a Mangia con me. Approfittatemene, sono delle ricette molto equilibrate, molto sfiziose, buonissime, e abbinando un po' di attività fisica. Ricordiamo questo dato sorprendente che ci ha sottolineato il dottor Bertuzzi, che sottolinea che lo stile di vita inteso come dieta e come attività fisica nella prevenzione del diabete di tipo 2 funziona più del trattamento farmacologico. Dottor Bertuzzi, un'ottima notizia, grazie per essere stato con noi. Buongiorno a tutti. Le auguro una buonissima giornata. Abbiamo Maria da Lecce. Maria, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di questa opportunità che mi state dando. Io volevo chiederle una cosa, e ultimamente sono una persona, diciamo, magra, eccetera, eccetera, mi muovo, Però ultimamente la parte del piede, l'osso che abbiamo esterno, che io adesso non so onestamente il nome preciso, e quando cammino mi si gonfia intorno la parte, e anche quando il rossore va via mi è rimasto gonfio. Mi è successo prima ad un piede e adesso all'altro. Volevo capire cosa è accaduto. Grazie. Dottor Respizzi. Dunque, per quanto riguarda la forma del nostro piede, dobbiamo sempre ricordarci che cambia col passare degli anni. Sì. E di conseguenza si possono venire a creare delle situazioni di sovraccarico, come diciamo i dottori, mm-hmm. in alcune zone del piede. Sì. Adesso esattamente che cosa la nostra ascoltatrice non si può sapere, ma di solito quando c'è un gonfiore e un rossore, mm-hmm. spesso accompagnato anche da un po' di caldo, da una zona che è un po' più calda, è perché lì c'è in corso un'infiammazione. Quindi la cosa di buon senso che possiamo dire è probabilmente lì c'è un sovraccarico che va studiato, che va analizzato, che crea uno stato infiammatorio, quindi una reazione infiammatoria esattamente in quell'appunto, in quel punto del piede, che magari nel tempo è cambiata, certo. rispetto a quello che la signora aveva 10-15 anni fa. Insomma. I nostri piedi si fanno sentire, a volte si fanno anche vedere, si trasformano e si trasforma anche, cambia anche il nostro modo di camminare nel tempo, magari un pochino più lento, oppure se vogliamo magari approfittare del cammino per dimagrire dobbiamo farlo un pochino, dobbiamo tenere un passo un pochino più sostenuto. Essere e benessere. Dove state andando? Fermi lì, non muovete un passo, perché dovete restare con noi per parlare di passi e naturalmente di piede. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Respizzi. Dottore, è ancora lì? Sono qua. Mm? Carlo da Roma ci chiama, poi Antonello da Napoli. Carlo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, io sono a Roma, però sono di Frosinone. Comunque le volevo dire che io cerco di camminare quando sono a casa e mi fa male sotto, specialmente il piede sinistro, e poi quando mi riposo un po' mi si fanno delle formichelle, in pratica, come se ride da solo lei, Carlo. Le formichelle, sì, mi spieghi cosa sono le formichelle, che cosa sono? Cioè, in pratica è come se si addormentasse, in pratica. Mi piacciono le formichelle. Le formichelle. E beh, io faccio l'autista, sono un po' sovrappeso, peso circa 105 kg, però sono alto 1,86. Però purtroppo cerco di camminare, però Carlo, lei è troppo simpatico. Dottor Respizzi, il consiglio che possiamo dare è questo: 105 kg, anche se alto 1,86, sono un bel fardello da portarsi a spasso, per cui consiglierei al nostro ascoltatore di provare a ridurre il peso facendo un'attività aerobica alternativa al cammino, che potrebbe essere il nuoto o la bicicletta. In questo modo il peso è sostenuto o dal sellino o dall'acqua, mm-hmm. e quindi non c'è un sovraccarico sui piedi, che in questo momento evidentemente si lamentano perché sopra c'hanno 105 kg che schiacciano. Sì. Questi sintomi che lui definisce le formichelle, che potrebbero chiamare tecnicamente le parestesie cosiddette. Formichelle è più carino. Formichelle è molto più bello. Molto. Indubbiamente, direi che possono avere due origini. O di tipo vascolare, cioè un problema di microcircolazione dei capillari in quella zona lì, mm-hmm. oppure di tipo neurologico, nel senso di una sofferenza delle terminazioni che arrivano dai recettori del piede. E quindi si tratta di approfondire per capire se ha un'insufficienza venosa, modesta o linfatica, mm-hmm. oppure se c'è qualche compressione a livello dei recettori nervosi. Però provare a ridurre il peso, quindi sovraccarico al piede, con altre attività alternative, potrebbe essere una buona idea. E le formichelle molto probabilmente se ne vanno. Assolutamente. Carlo, ci faccia sapere. Abbiamo Antonello che ci chiama da Napoli. Buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno Microcittà. Buongiorno. Volevo dare la mia testimonianza sull'automassaggio. Sì, lei lo fa? Sì, quotidianamente. Bah, anch'io. Questo io lo vidi tempo fa in un documentario. Mm. E l'ho imitato, però loro spiegavano che passando in certe parti del piede si potevano stimolare le endorfine al cervello, che te la so. E io volevo dare la vostra testimonianza che mi dà poi il giovamento, perché faccio un lavoro che sempre in piedi, catena di montaggio, e quindi la sera quando si torna a casa, cioè sospiro di sollievo. È vero, Antonello, anche io devo dire che mi massaggio i piedi, soprattutto alla sera, e faccio un esercizio molto semplice. Lo chiedo al dottor Respizzi se fa bene, se possiamo suggerirlo o no. Io praticamente con le dita delle mani intreccio le dita dei piedi e faccio questo movimento, questa specie di così massaggio molto delicato. È come se mi intrecciassi dita di mano con dita di piedi. Muovo le dita, le metto un pochino in avanti, un po' indietro, e devo dire, come Antonello da Napoli, è proprio, sono 2 minuti che poi rendono molto a livello di benessere. Certo. Dottor Respizzi. Qui si torna al tema che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato all'inizio, sì, del piede come organo di senso. Qualunque parte del nostro corpo si massaggi, noi emettiamo endorfine. Le endorfine sappiamo che sono sostanze favolose perché ci fanno stare bene sostanzialmente. Sì. Il piede è molto più sensibile a questo tipo di stimolazione perché è molto molto ricco di recettori sensitivi, quindi tutto il tema della riflessologia plantare, tutte queste pratiche che sono nate per esperienza nei secoli sostanzialmente, perché sono cose molto anziane, sono proprio legate al fatto che una breve stimolazione intensa del piede è sicuramente un grande strumento per scatenare liberazione di endorfine. Le endorfine ti fanno stare bene. Nel caso del nostro ascoltatore, io direi che c'è un ulteriore, diciamo tra virgolette, aggravante, se si può dire. Sicuramente in catena di montaggio usano scarpe antinfortunio. Meno male, sono obbligatorie, e meno male che lo sono perché proteggono il piede da eventuali infortuni, ma sicuramente sono delle scarpe più impegnative, più rigide, che quindi ancora una volta costringono un po' per molte ore al giorno il nostro piede a stare in una posizione che sicuramente non è molto fisiologica. A questo proposito voglio leggerle un messaggio di un ascoltatore che abbrevio perché è abbastanza lungo, che ha trovato al supermercato delle solette con dell'aria dentro che fanno una sorta di massaggio al piede, e chiedeva se secondo lei sono utili, perché provandole in effetti il suo piede sta meglio, aveva dei duroni, aveva dei calli, e dopo utilizzando questa soletta ha sollievo, va bene? Dunque, io tendenzialmente sono abbastanza contrario alla prescrizione di una soletta che va bene per tutti, perché se va bene per tutti non va bene per nessuno. Poi, e quindi consiglierei eventualmente una soletta personalizzata, prendendo l'impronta del piede, perché ognuno di noi ha un piede con certe caratteristiche. Sì. Così come si fa fatica a trovare la scarpa giusta, anche la soletta dovrebbe essere personalizzata. Però nel caso specifico, visto che non è una soletta di tipo correttivo, ma è una soletta soltanto stimolante, immagino con dentro un cuscinetto d'aria, in questo caso male non fa, per cui se ha beneficio, bene. Fantastico. E va bene, adesso ci provo, Sì, il pavimento tiene. Ma guarda, purtroppo devo riconoscerlo, come fratello maggiore sono fallimento, ma l'avete vista? Attenzione, vado, è meglio che il resto. Ma c'è ancora che ci prova. Ecco che vado. Mi muovo, ci sto muovendo, cammina. Primi passi, primi dubbi, dottor Respizzi, parlo dei dubbi e delle ansie dei genitori che di fronte al piede piatto del loro bambino si preoccupano, sono belli ma assomigliano un po' a dei piccoli ferri da stiro portatili, no? Quelli da viaggio, e poi i bambini sappiamo all'inizio camminano in dei modi molto strani, c'è chi cammina con le punte in dentro, c'è chi cammina in punta di piedi, insomma bisogna dare secondo me ai genitori all'ascolto qualche indicazione per rassicurarli, ma nello stesso tempo per dare anche indicazioni qualora invece il problema, la camminata del loro bambino, il modo in cui appoggia il piede per terra richiedano magari l'intervento di uno specialista. Certo, dunque intanto 2 cose importanti per rassicurare i genitori. Il bambino nasce col piede piatto, tutti i bambini nascono con un piede piuttosto piatto. Questo è fisiologico, quindi non è preoccupante. Tendenzialmente si dice anche che fino ai 3 anni non c'è nulla da fare e bisogna solo aspettare che il piede cresca. Quindi provvedimenti prima dei 3 anni di solito devono essere per condizioni assolutamente estreme di gravissime deformità del piede, quindi stiamo parlando dell'1 per 1 milione, per dire, insomma, quasi nessuno ha queste problematiche. Quindi, fatto ciò, io posso aiutare lo sviluppo corretto del piede del nostro bambino, che come tutte le altre parti del corpo cresce, aumenta di misura banalmente, no? Cambia proprio forma, e all'interno del piede ci sono molti muscoli che seguono la formazione, l'allungamento delle ossa che portano fino poi alla nostra taglia da adulto. Come si fa a stimolare questi muscoli e favorire un sano benessere del piede? Bisogna semplicemente far andare i bambini a piedi nudi. Non c'è nulla da inventare col calzettone d'inverno, come vogliamo, ma non è un caso che i bambini piccoli tendano a togliersi le scarpe. Farli camminare a piedi nudi stimola molto la muscolatura del piede, stimola molto uno sviluppo corretto tutte le ossa del piede, e quindi fa in modo che questo piccolo umano, toccando il terreno a piedi nudi, sviluppi anche quella capacità sensoriale di cui abbiamo parlato prima, e quindi diventa una persona poi capace da adulto di gestire anche il terreno in maniera più corretta, come facevano i nostri antenati, che non avevano le scarpe. Essere e benessere. Carlo, buongiorno, ci chiama da Vicenza, benvenuto. Buongiorno. Io chiamo per Pietro, mio figlio di 7 anni. Sì. È un bambino cresciuto molto in fretta, anche di una certa massa, non è grosso, ma comunque lo si vede bello massiccio. E da sempre Pietro ha il piede destro introverso. L'ultima visita ortopedica l'abbiamo fatta un anno fa. Sì. E il medico ci diceva di aspettare, di vedere come si evolveva la camminata di Pietro. Nell'ultimo anno, a nostro avviso, è peggiorato sia il piede destro ed è diventato introverso anche il piede sinistro. Ecco, la camminata somiglia un po' a quella di Pinocchio la mattina, lui sembra che abbia problemi, quasi problemi muscolari. E quindi fa fatica ad alzare le gambe, fa fatica a scaldarsi, a mettersi in moto. Sì. E alla sera, se fa attività fisica, soffre di dolori muscolari e crampi. Certo, grazie Carlo. Dottor Respizzi, abbiamo parlato dei piedi piccoli, fino a 3 anni il piede fisiologico rimane piatto, poi magari ci darà degli esercizi se ci sono per stimolare un po' noi i piedi dei bambini, ma Carlo ci porta avanti un pochino nell'età, siamo a 7 anni, il difetto non è stato corretto, ma sembra peggiorare. Che cosa si può fare? Qual è il termine entro cui poi bisogna passare dal plantare o da una ginnastica di riabilitazione a un intervento? Dunque, diciamo che la forma del nostro piede diventa definitiva alla fine dell'adolescenza, quindi diciamo tra i 16, 17, 18 anni. In quel punto la misura l'abbiamo raggiunta, è quella forma lì e non si modifica più. Ci sono delle situazioni tra l'adolescenza e dai 3 anni fino all'adolescenza in cui può essere necessario magari intervenire anche chirurgicamente. Ora, nel caso che ci ha raccontato l'ascoltatore, io quello che consiglio è di confrontarsi con un ortopedico pediatra. È una sottospecialità dell'ortopedia, proprio perché non essendo una patologia così diffusa, non sono tanti in Italia quelli che se ne occupano. E quindi ci vuole proprio una persona che ha la capacità e la specialità di saper giudicare bene un piede di un bambino. Quindi ortopedia pediatrica direi che è il campo giusto. Giusto per chiedere ecco, un parere. Poi, da quanto sta raccontando l'ascoltatore, il papà, se il ragazzino ha problemi anche di fatica, facile affaticamento, eccetera, bisogna capire ed escludere se non ci sono anche altre cause legate alla muscolatura, all'abitudine al gioco, piuttosto che no. Quindi no, mi sembra che sia una situazione un pochino più complessa e comunque sopra il piede. L'indicazione anche esiste nell'ortopedia, una sorta di specializzazione che sono gli ortopedici che si occupano proprio di bambini. Esatto. E invece si occupa del nostro modo di camminare, soprattutto ci insegna a camminare bene, a utilizzare il cammino come occasione di benessere, quindi renderlo efficiente ed efficace. Un grande campione, Maurizio da Milano, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, mi era venuto un attimo, mi era andato il sangue nei piedi, come si dice. Senta, tutti noi camminiamo, mettiamo un piede dopo l'altro e va bene, ma si può anche migliorare, anzi ci piacerebbe migliorare con i suoi consigli. Ci dà qualche dritta perché il nostro cammino diventi più tonificante, più efficace, più piacevole? Da che cosa iniziamo? Dal modo in cui si appoggiano i piedi. Esatto, si parlava di piedi, e quindi i piedi sono il motore vero di chi cammina, quindi si parte dai piedi. La vera camminata di tipo più energico, di tipo più vigoroso, parte da un corretto utilizzo del movimento del piede, quindi il piede deve essere utilizzato nel modo più completo possibile, quindi partendo da un buon appoggio di tacco, un appoggio deciso, un appoggio vigoroso che permetta di sostenere proprio l'avanzare del peso del corpo che passa in appoggio sul piede, fino a terminare poi con una buona spinta, quindi raggiungendo la punta dell'alluce e utilizzando quel movimento che tecnicamente si chiama movimento a tampone del piede, quindi una sorta del movimento che facevano i vecchi tamponi per asciugare l'inchiostro. Quindi partiamo dal tacco, scendiamo verso la pianta del piede e quindi completiamo la spinta raggiungendo ben in fondo la punta dell'alluce, in modo da utilizzare tutta la potenzialità del piede. Questo unitamente poi al movimento delle gambe, quindi l'utilizzo dell'ampiezza della falcata e la frequenza della falcata stessa in coordinamento con quello che è l'oscillazione delle braccia, che deve essere ben ampia per permetterci di fare una camminata decisa, ci permette di iniziare a entrare in quel sistema di una tecnica corretta, di una gestualità corretta del camminare, che ci permette poi di acquisire tutti quei benefici di carattere salutistico, anche se vogliamo, attraverso un esercizio che non ci penalizzi, però con dei movimenti scorretti che potrebbero influire sulla nostra postura o su problematiche legate alle articolazioni, all'apparato muscolo-scheletrico, tendineo, eccetera. Per cui, Maurizio da Milano, per prendere dal cammino, inteso, noi ci stiamo rivolgendo alle persone che sono tante, che magari fanno due passi in più a piedi per raggiungere l'ufficio, per andare a fare la spesa, per prendere dal cammino tutto il meglio. Certo, diciamo che questa è sicuramente il presupposto iniziale dell'idea di utilizzare il cammino come forma anche, diciamo così, di beneficio, di tutela della nostra salute, quindi di tutte quelle persone che lo utilizzano proprio sotto la forma della quotidianità. Perfetto. Di lì poi possiamo anche incrementare questo, certo, livello. Poi di Maurizio da Milano tornerà e ci parlerà del fit walking e del Nordic walking, e qua si entra già più nell'ambito dell'attività sportiva vera e propria, no? Di uno sport. Sì, diciamo, parliamo di attività di cammino organizzato, perché sì, ecco, chiaramente sono tutte forme di attività sportiva ma non agonistica, quindi parliamo più che altro di un'attività organizzata sotto forma anche di uscite regolari, di un'attività che riguarda anche l'impegno cardiocircolatorio di un certo tipo, ma sicuramente non ancora di tipo sportivo agonistico. Come si dice, iniziamo passo dopo passo. Oggi, sì, camminare è proprio quello, insomma. Ecco, oggi ci portiamo a casa questa informazione. Se camminiamo, proviamo oggi, tornando a casa o andando a fare la spesa, a seguire i consigli di Maurizio da Milano. Ricordiamoci l'effetto tampone, giusto Maurizio, hai detto, l'hai, sì, chiamato così? Movimento a tampone del piede, quindi questo utilizzo bello deciso, bello vigoroso del movimento dei piedi, che ci aiuta a entrare anche in un movimento di gambe, del supporto, dell'ausilio delle braccia più deciso, proprio perché questa camminata diventi un pochettino più rapida e più vigorosa. Le faremo sapere, grazie, a prestissimo, arrivederci, buona arrivederci, giornata. Arrivederci. Dottor Respizzi, ha capito? Sì, Maurizio è un grandissimo, grande, perché è una persona, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, naturalmente, ma è stato molto bravo, perché ho avuto modo di parlarne con lui qualche tempo fa, perché è riuscito a trasformare la sua competenza, la sua capacità di camminare nella maniera corretta, in un modello di vita, di igiene di vita molto favorevole, e quindi direi doppio complimento, un'altra medaglia d'oro gli diamo da questo punto di vista. Dottor Respizzi, allora, in chiusura di questa nostra chiacchierata su cammino, passo, io vorrei, possiamo mandare una breve indicazione, sempre di passi parliamo e di passi che ci fanno stare bene e, aggiungo io, ci divertono. Volete dimagrire? Scatenatevi con il Samba. Meglio se con costanza durante l'anno ai corsi. Potrete perdere qualche chilo e tonificare la muscolatura. In un'ora di ballo latinoamericano brucerete calorie quanto in una sessione intensa in palestra. Mentre si smaltiscono le calorie in pista, glutei, gambe, girovita e addominali si rassodano. Zone critiche per lei, ma a volte anche per gli uomini che con il samba butteranno giù la pancetta. 2. Le raccomandazioni. L'allenamento deve essere graduale e in progressione se si vuole ottenere un effetto sulla bilancia costante. E durante la lezione bisogna bere molto, in modo da reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. L'abbiamo letto su OK Salute, non volevamo perderlo e volevamo soprattutto condividerlo con voi e col dottor Respizzi, che immagino approvi anche i passi di ballo. Assolutamente. Se poi si balla a piedi nudi ancora meglio. Ancora meglio. Io a proposito vi ricordo che potete riascoltare la puntata, scriverci. Poi sulla pagina di Essere Benessere, potete trovarla sul nostro sito, abbiamo messo 3 lezioni di yoga per rilassarsi, per meditare e per respirare. Ditemi se la cosa vi piace, fatemelo capire con un click per fare altri video, magari uno proprio col dottor Stefano Respizzi, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie. Buonissima voi. Giornata. Grazie a voi. Gianmarco Ferronato in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Se volete, domani ci ritrovate qui, sempre alla stessa ora, dopo il GR delle 11. Buonissima giornata. Essere e benessere.